Ecco, sentite che in questo profumo come subito vi assale di più al naso. L'eleganza del dolcetto è un altro mondo, un'altra cosa. Qui arriva subito un elemento invece dirompente, molto, molto, molto, come dire, molto schietto, molto, molto generoso. Entra subito nelle narici, entra subito con questi elementi molto, molto, molto incisivi. Questa nota appena appena linfatica, questo è un ricordo di foglie verdi, di quando si rompono i ramoscelli, che sentite proprio questo elemento vegetale, linfatico, molto molto forte, molto molto netto. Ecco, questo fa da sostegno alla parte fruttata, anch'essa dolce, ma forse più fresca, più fragrante, tende più a ricordare i frutti di bosco, il lampone, le fragole. È una, come dire, una dolcezza più succosa, più di polpa e meno di buccia. Quindi un elemento molto, molto, molto generoso, molto immediato, molto fresco, molto, molto come dire, quasi aggressivo, vi arriva diretto in bocca, forte, diretto, senza mediazioni, senza pensarci troppo. Sentite anche questi elementi speziati come si fanno al naso, già più pungenti, questa nota di pepe che tende anch'essa a punzecchiare un pochettino il naso. C'è subito questo elemento più vivo, più incisivo, più selvatico, più zergo, appunto. E mo' che sentite che la parte succosa, la parte fruttata è molto viva, molto, molto fresca, di frutto appena raccolto, ancora con quella sua acidulità che dà molta freschezza, che dà molta, molta fragranza al gusto, e che dà quindi questo elemento molto, molto, molto piacevole, molto ampio al palato. Si distribuisce praticamente lungo tutte le pareti della bocca, della lingua, il palato, e si arricchisce continuamente di sfumature, passa dalla parte fruttata alla parte speziata, poi c'è questo tocco linfatico, questo tocco vegetale che dà molta freschezza, molta fragranza. Quindi un vino che si, come dire, vi lascia la bocca molto molto molto pulita, molto fresca. C'è questo tocco acido che tende proprio a far salivare di più la bocca e quindi a renderla perfettamente pulita, molto molto molto ricca di sensazione e di gusto che rimane in bocca. È una sensazione quindi molto vivace, molto allegra, dà subito, come dire, questa sferzata di vitalità, di energia. È un vino quindi molto molto molto vivo, molto, che ha molte cose da raccontare, appunto questo carattere così esuberante, così ricco di cose da dirci, davvero un elemento, una forza della natura. Ecco, la Barbera è proprio un elemento così, un vino di grande generosità e di grande spontaneità. E bravi quindi anche ai fratelli Santo Pietro con questo loro Barbera Guerra. E adesso siamo con il Gaggiarone, con il vino dell'Oltre Po Pavese. L'Oltre Po Pavese è una terra anch'essa molto molto molto molto ricca di vini, di grandi vallate coltivate a vigna. C'è una serie di comuni, di paesi che sono ormai diventati famosi per i loro vini. Era in qualche modo il vigneto dei milanesi. I milanesi andavano spesso nell'Oltre Po Pavese per comperare il vino. Il vino semplice, il vino da portare a casa, che si imbottigliavano nelle loro cantine o nelle loro case. Molto spesso quindi il vino dell'Oltre Po Pavese era molto molto semplice, perché doveva soddisfare i semplici bisogni del vino quotidiano, non aveva tante, pretese di diventare il vino importante, il vino da assaggiare con attenzione. Era il compagno della tavola quando il vino era l'elemento più comune nelle nostre case. Nelle nostre case appena si toglieva qualcosa da mangiare sul tavolo c'era il pane e c'era la bottiglia o il bottiglione di vino. Non si richiedeva tanto a questo vino, soltanto che ci scaldasse un po' l'animo, che ci scaldasse un po' la bocca e che potesse dare anche un pochettino di non soltanto di calore ma anche di calorie. Molto spesso allora il vino era considerato appunto un alimento, cioè una sostanza dalla quale si traeva le calorie necessarie per vivere, per avere l'energia della giornata. Ricordiamoci quando ancora in Italia il consumo pro capite superava i 100 litri pro capite, adesso siamo sì e no a 45 e quindi c'erano molte molte persone che si bevevano un litro di vino a tavola, ce n'erano a volte anche di più, quindi era proprio l'elemento così più naturale. Ecco, molto di questo vino era il vino dell'Oltrepopavese. Poi i tempi cambiano, naturalmente le cose sono cambiate, le nostre abitudini alimentari e anche la necessità di chilocalorie si è notevolmente abbassata e quindi anche il vino dell'Oltrepopavese è cambiato nel frattempo, ha dovuto cambiare perché ha dovuto appunto adeguarsi alle nostre nuove esigenze. Allora c'è una maggiore attenzione alla vigna, c'è una maggiore attenzione a come si coltiva l'uva, quindi queste piante non producono più come una volta 3, 4, 5 kg di uva per pianta, ma si cerca di stare il più vicino possibile al chilo e mezzo di uva per ceppo. Allora i vini si cominciano ad arricchire di gusto, di sensazioni, di intensità e i vini quindi diventano più eleganti, più importanti, più ricchi e più concentrati. Ecco, i vini dell'Oltrepopavese moderno, diciamo così, sono fatti con uva Barbera principalmente e Croatina, un'altra uva anch'essa particolarmente ricca, generosa, dà tra l'altro un colore molto intenso, molto, molto, molto profondo e una forte nota di frutto, di ciliegia, di fragola, di mirtillo, di frutti rossi molto, molto, molto colorati, diciamo. È quello che dà la sensazione del frutto di buccia, cioè di quelli frutti che danno il loro sapore principalmente con la buccia, non tanto con la polpa, quindi il ribes, il mirtillo, questi frutti piccolini e appunto con tanta buccia. Ecco, il vino, quindi il vino dell'Oltrepopavese in questo caso si arricchisce proprio di queste sensazioni così molto, molto ricche, molto dolci, molto concentrate. Questo è Barbera. Com'è? Questo. Com'è? No, va bene. Ecco, sentite anche qua come vi sia qualche elemento appena di vivacità, qualche nota anche qui un pochettino vegetale che dà una sensazione fresca, quasi appena di menta. C'è questo frutto molto molto ricco, molto molto, molto maturo, molto succoso e una nota proprio molto molto speziata, sembra quasi come dire un po' a punta, un po' appuntita, perché vi dà questa sensazione appunto molto graffiante, molto pepe, molta nota vegetale, questo tocco di menta che gli dà questo carattere molto molto ricco, molto molto generoso.